Sentì nella luce, nell'aria, nel profumo dei fiori. Ecco piena la stanza solitaria di te, dei tuoi splendori. Interrapito al suon della tua voce, lungamente sognai, e della terra ogni affanno, ogni croce, in quel giorno scordai. Torna un istante a sorridermi ancora, e a me risplenderà nel tuo sentire.